Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, è Natale, tanti auguri, buon Natale. Proprio quest'anno capita che la nostra trasmissione appunto si svolga, venga appunto mandata in onda sulle frequenze di Blu Radio Veneto il sabato, la domenica, la vigilia, il giorno di Natale. Questa è una cosa che ci fa molto piacere, è un segno anche questo di gioia, di festa, e quindi auguriamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che sono a casa a festeggiare, che si stanno preparando per la grande festa, tanti tanti auguri, pace, serenità, che appunto Gesù bambino ci porta appunto nascendo in una grotta, nascendo nella semplicità, nella povertà, ma densa, diciamo, anche di felicità, di gioia, di rapporti, di relazioni. Ecco, prendo spunto subito per iniziare. Fuori di noi è una trasmissione dedicata al mondo degli oratori, che questi ambienti diventano veramente delle piccole occasioni per allargare un po' la famiglia appunto di amici, parenti, cugini, che anche all'interno dell'oratorio tutti coloro che lo frequentano possono ritrovare quella familiarità, quella dolcezza, quella occasione di confronto, di anche di sostegno nei momenti difficili che il Natale, il messaggio del Natale ci offre e offre a tutta l'umanità. Auguro che il compleanno della nostra associazione sia illuminato dal Natale di Gesù. Lui è il nostro maestro, lui ci insegna ad educare, lui ci aiuta a percorrere le strade degli uomini e delle donne del nostro tempo. Il Natale di Gesù allora ci ricorda che saremo un'associazione educante, accogliente, capace di far crescere i nostri soci solo se ci mettiamo alla scuola di Gesù. Questo è uno dei messaggi che i vari presidenti territoriali, in questa, in maniera particolare quello di Treviso, dedica, diciamo, nella circolare che arriva in tutti gli oratori una volta al mese, una volta al mese e mezzo, e che appunto ci fa entrare nel clima natalizio. Quindi tanti auguri a tutti quanti, a coloro appunto che quotidianamente, settimanalmente hanno dei compiti all'interno di questi ambienti, ma anche a coloro appunto che ci passano solo per passare un po' di tempo, per bere un caffè magari dopo la messa, per giocare una partita a carte, per fare un piccolo torneo di calcetto balilla, insomma tutti i nostri giovani, adulti, anziani, perché ricordiamolo, i circoli oratori noi sono dedicati e sono, diciamo, anche occasioni di incontro per le generazioni. E allora una grande parola che veniva citata anche in questo messaggio di auguri è educare. Cosa vuol dire educare? Vuol dire fare rete, vuol dire conoscere, vuol dire dialogare, vuol dire anche confrontarci su temi che sono sempre gli stessi per tutti, ma vengono ovviamente anche personalizzati, originalizzati dall'esperienza che ciascuno porta con sé, ed è dovuta alla cultura, ed è dovuta al passato, è dovuta alla storia, è dovuta anche all'età. Ecco una cosa importante, quindi che siano questi ambienti sempre occasione di confronto e mai di scontro, che siano anche occasioni per educare e per trasmettere valori, valori importanti, messaggi positivi e io dico anche un po' di serenità, visto il periodo che non è proprio felice per molte persone e anche molti nostri vicini di casa. Fuori di noi una trasmissione dedicata al mondo degli oratori, al mondo dei circoli. Se volete mandare qualche augurio, qualche bella fotografia di qualche progetto che avete realizzato, che state per realizzare, o volete raccontarci un'esperienza vissuta all'interno del vostro oratorio, mandate a fuori di noi @libero.it o mandate un sms al 320 614 6964. Nel messaggio che voi mandate, nell'sms che voi scrivete, potete anche dirci: vorrei essere protagonista di Fuori di Noi, vorrei che Fuori di Noi parlasse del mio ambiente, del mio oratorio. Noi appunto la redazione vi contatterà e programmerà con voi una puntata insieme, perché il nostro, diciamo, intento è quello di far conoscere quanto bella è l'esperienza di chi vive all'interno di un padronato, di un circolo, di un oratorio, che sia di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, Trieste, qualsiasi sia il territoriale a cui voi appartenete. Ma adesso iniziamo subito questo Natale, questo giorno di Natale, questa vigilia di Natale, con una grande canzone. Primo momento musicale che la nostra regia vi offre. Just like the ones I E non potevamo non salutare appunto con la festa del Natale con una canzone tipicamente natalizia e poi speriamo appunto di ascoltarne un'altra. Ci siamo fidati della regia di Eddie Daici e ovviamente non ci ha deluso. Anzi, ricordiamo e salutiamo la regia Eddie Daici, gli facciamo subito gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Di solito lo facciamo e salutiamo sempre in fondo, diciamo quasi in coda della trasmissione, invece salutiamo fin dall'inizio. Allora, parlavamo di relazione, parlavamo che la festa del Natale è anche occasione di incontro. Ricordiamo anche che stanno partendo, sono diciamo quasi ultimate le iscrizioni per quanto riguarda i laboratori di relazione, laboratori di formazione per animatori di oratorio promossi da Noi Treviso Associazione. Si svolgeranno a Novente di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Piombino Dese, San Trovaso e Frescada. Però la segreteria ci dice che c'è ancora qualche posto disponibile, quindi contattate la segreteria quanto prima, ovviamente dopo le vacanze natalizie, 0422 419538, e anche il numero di fax, oppure inviate un'email a info@noitreviso.it. Stiamo festeggiando la grande festa del Natale, ma nel 2012 Noi Treviso Associazione ha una piccola festa, piccola grande festa che diciamo ricorda i 10 anni di vita di questa realtà. E noi abbiamo intervistato anche tutti i circoli, almeno una gran parte di circoli, che stanno collaborando a questa festa che si terrà domenica 15 aprile 2012 all'oratorio San Giorgio di Quinto. E allora proviamo a sentire qualche responsabile e proviamo a raccontarci anche qualche piccola novità, qualche sorpresa su questa grande festa che stiamo aspettando. E adesso parliamo appunto ad uno dei il circolo ospitante della festa 2012, che è rappresentato da Floriano. Ciao Floriano. Allora, innanzitutto, tutto questo lavoro che state un po' mettendo in piedi insieme ad altre realtà oratoriali ha la finalità appunto di ritrovarci tutti insieme, speriamo numerosissimi, il prossimo anno. Avete già qualche idea in cantiere? Avete già qualche sorpresa? Come verrà, diciamo, in linea di massima organizzata la giornata? Diciamo che con il gruppetto di amici di altri circoli oratori stiamo cercando di dare delle idee, stiamo cercando di trovare delle idee per poter al meglio far sì che sia i bambini che gli adulti abbiano da questa festa delle aspettative molto, molto belle, diciamo. Stiamo cercando di valorizzare con delle proposte il territorio e cercheremo il più presto di definirle insieme agli altri. Abbiamo chiesto appunto anche ad uno dei responsabili di Ospedaletto di fare un invito appunto a partecipare a questa festa. Perché secondo te è importante che una realtà come Noi Treviso si ritrovi, faccia festa all'interno di un oratorio con tutti gli oratori affiliati, che oggi sono più di 140? Diciamo che l'anniversario, il decimo in questo caso, è una tappa importante per gli oratori che si sono sempre distinti e focalizzati come ideologia di pensiero, come un ponte attraverso la parrocchia. Diciamo che trovarci tutti assieme, condividere finalità, sinergie, questa festa dovrebbe essere proprio il clou e dare nuovi stimoli ai soci, a tutti i circoli, perché si possa continuare in questa strada, che soprattutto la strada educativa, che è molto importante in questi anni che viviamo, soprattutto verso gli adolescenti e gli adulti. Siamo all'interno di questo oratorio appunto di cui tu sei uno dei responsabili. Vediamo tanti calcetti, vediamo dei videogame, vediamo anche occasioni per poter leggere, ma vediamo anche un portone, c'è scritto Gruppo L'Altro Noi. Cos'è? Avete fondato un altro oratorio? È un altro noi diverso dall'oratorio di San Giorgio? No, non è un altro oratorio. Diciamo che questo nome sta proprio a significare, dato che è stato scelto da giovani adolescenti, sta a significare che noi lavoriamo all'interno dell'associazione, però con un'altra identità. Che identità? Questi ragazzi sono nati come gruppo 3 anni fa, facendo teatro. Però man mano che il tempo è passato sono maturati soprattutto attraverso la loro sensibilità e le proposte che un gruppo di adulti ha saputo dare a loro. adesso, dall'anno scorso, loro stessi hanno voluto diventare un gruppo di servizio, per dare alla comunità, al territorio, del loro tempo libero attraverso delle richieste che il territorio e certe associazioni ci fanno delle richieste, diciamo. Abbiamo una mail che è altronoi@libero.it e i ragazzi l'anno scorso come primo programma che abbiamo deciso di fare assieme ci siamo soffermati sul problema dei bambini soldato in Africa. Ne è nato una bella storia, abbiamo portato avanti un bellissimo lavoro che poi abbiamo presentato alla comunità e al consiglio pastorale, redatto con delle foto e con delle interviste. E quest'anno a breve cominceremo l'attività di nuovo con i ragazzi, ci sono delle idee in cantiere, ma al più presto vi faremo sapere come abbiamo deciso di continuare. Quanti ragazzi sono ad oggi i ragazzi appunto che fanno parte del gruppo L'altro Noi? Allora, i ragazzi ad oggi sono una quindicina e la loro età va dalla terza superiore al primo anno di università, sono di quinto e sono anche di Zero Branco. Ecco, concludiamo con lo stesso invito che abbiamo fatto appunto al tuo collega di Ospedaletto. Floriano, allora, voi ospitate questa festa, la ospiterete il prossimo anno. Qui vedo tanti cartelli che avete appeso nel vostro oratorio, uno dei quali dice: l'importante è partecipare. Ma è davvero importante partecipare alla festa dell'anno prossimo? Diciamo che se De Coubertin diceva che l'importante è partecipare, noi diciamo che è essenziale partecipare a questa festa del Noi 2012. Quindi Floriano, la promessa è: dobbiamo vedervi numerosi, altrimenti veniamo noi nei vostri oratori a prendervi per venire qui, ripetiamo, all'oratorio San Giorgio di Quinto di Treviso il 15 aprile 2012 per la grande festa del Noi di Treviso che compie 10 anni di vita. Grazie Floriano e buon lavoro allora per la festa. Grazie altrettanto e aspettiamo tutti. Ecco, cosa aggiungere altrimenti? Semplicemente appunto l'invito era quello di partecipare, ma io dico una cosa, volevo aggiungere una cosa. Nel book Noi Associazione Educare dall'emergenza alla speranza, che sto praticamente citando da qualche settimana all'interno della trasmissione Fuori di Noi, c'è un laboratorio che è stato creato, sono diciamo i risultati di un convegno fatto a Sottomarina dal 31 maggio al 2 giugno 2010, in cui Noi Associazione, tutti i territoriali diciamo d'Italia, si sono ritrovati per parlare di oratorio, e c'è un tema molto particolare, molto importante: accoglienza. L'adolescente o giovane dei nostri oratori ha bisogno di cogliere non solo che qualcuno lo sta accompagnando, ma che è accolto nella sua originalità e incoraggiato a coltivarla. Ma l'accoglienza poi come si traduce? E su questo hanno un po' ragionato tutti i partecipanti a questo convegno. E i risultati sono questi: l'accoglienza si traduce in entusiasmo, la capacità di gioire con i giovani e incoraggiarli per quello che sono e per quello che sanno fare. L'accoglienza è anche saper accettare anche le loro fragilità, dovute spesso alle tante appartenenze che caratterizzano la loro vita. Serve però la capacità di cercare con loro le risorse personali e proprie di ciascuno per poterle valorizzare. Bisogna fare il possibile perché i nostri oratori, quindi i nostri ambienti, i nostri circoli e le nostre comunità siano un contesto sereno per i ragazzi, e questo dovuto anche in gran parte dalla possibilità di vivere relazioni stabili. Ultima cosa, sempre parlando di accoglienza, il Natale è per eccellenza la festa dell'accoglienza, si richiede anche la capacità di comunicare con i giovani in modo da far emergere la loro identità profonda oltre che l'appartenenza. E io credo che proprio il Natale, le vacanze di Natale, dove tutti siano un po' più diciamo tranquilli, meno diciamo stressati da miliardi di impegni, scadenze eccetera, è l'occasione per fare relazione, è occasione per dare corpo e realtà a questa parola fondamentale oggi, che è accoglienza. Ma adesso noi continuiamo con un altro brano musicale tipicamente natalizio, e quando si parla di Natale si deve parlare di Mariah Carey, che ci canta All I Want For Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. For my own, more than you could ever. For Christmas is you. E allora tutto quello che voglio per Natale sei tu, e io spero che questo tu sia veramente questo Gesù che si incarna e viene a vivere in mezzo a noi condividendo gioie e miserie. Bene, allora dopo aver ascoltato appunto anche i nostri responsabili, alcuni responsabili dell'oratorio di San Giorgio di Quinto che ospiteranno la festa territoriale, la scorsa settimana, se vi ricordate, abbiamo intervistato il neo presidente nazionale di Noi Associazione, Don Marco Saiani, che ci ha raccontato un po' l'esperienza che sta vivendo appunto come presidente, come neopresidente. Ma è Natale, quindi abbiamo pensato di farvi anche una sorpresa. Abbiamo incontrato una persona davvero speciale, quindi dopo il presidente di Noi Nazionale la scorsa settimana, questa settimana cosa potevamo fare, come potevamo superare in qualche maniera o almeno pareggiare i conti con un altro ospite veramente molto speciale. Abbiamo incontrato il vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, che ci ha consegnato alcune parole di augurio per il Natale che stiamo vivendo e ovviamente per il compleanno di Noi Associazioni, 10 anni di vita. Ascoltiamo. Eccellenza, è Natale, ma è anche l'inizio di un nuovo anno molto speciale per Noi Associazione perché festeggia i suoi 10 anni di vita. Desidero rivolgere un augurio speciale appunto per tutte queste realtà che si sono ben inserite all'interno delle parrocchie, delle diocesi e fanno tante belle attività, quindi un augurio ai responsabili ma anche a coloro che frequentano abitualmente ogni fine settimana questi ambienti di gioco, di divertimento e anche di annuncio cristiano. Molto volentieri, anche perché certo si tratta, so bene, di un grande numero di persone, sia coloro che lavorano, che si dedicano, che prestano la loro opera per la vitalità e per l'efficienza e il buon funzionamento di questi luoghi così importanti per le nostre comunità, per l'educazione dei più piccoli e dei più giovani, e sia per tutti coloro appunto che frequentano questi oratori dove il Noi svolge la sua preziosa attività. E allora, prima di tutto, un augurio di Natale con tutto il cuore, davvero con grande affetto e con il desiderio che il prender parte a tutto ciò che il Noi organizza e offre sia davvero occasione di crescita umana, crescita nella relazione con gli altri, capacità di stare insieme nella gioia, nella fraternità, nella serenità, e anche crescita cristiana, perché il cristianesimo è prima di tutto relazione e disponibilità ad essere per l'altro e assieme all'altro, insieme costituire una famiglia dove si vive bene insieme, dove ci si aiuta reciprocamente. Poi questo appuntamento dei 10 anni credo che debba essere giustamente riconosciuto e anche festeggiato, dopo voi troverete i modi giusti, perché, come ho detto, si tratta di una grande realtà per la nostra diocesi, e apprezzabile, dove molte persone, diciamo così, mettono del proprio in termini di tempo, in termini di dedizione, in termini di educazione per gli altri. Quindi per me questa è l'occasione anche per esprimere una gratitudine veramente viva e sincera per tutto quello che viene fatto, per tutte le persone che operano. Grazie veramente di cuore, perché contribuite ad una crescita umana e cristiana dei nostri giovani, della nostra Chiesa, e non possiamo che dire grazie, che il Signore vi ricompensi largamente. Eccellenza, ricambiamo gli auguri, allora buon Natale e buon anno nuovo. Grazie, grazie di cuore, grazie. Di più non potevamo fare, abbiamo incontrato anche il Vescovo di Treviso, appunto, che ci ha rivolto queste parole che noi ricambiamo, e speriamo appunto di averlo presente anche nelle occasioni di festa che noi cercheremo appunto di creare all'interno appunto della diocesi di Treviso, e spero anche di poter appunto continuare questo tour radiofonico raccontando questa vivacità, questa fraternità che ricordava un po' Sua Eccellenza all'interno di questi ambienti che è sempre più numerosi e anche sempre più, diciamo, vivaci dal punto di vista non soltanto delle proposte ma dello stile con cui vengono, diciamo, lanciate e fatte, praticamente create all'interno di queste belle realtà. Allora siamo arrivati alla fine, è Natale ancora, tanti auguri appunto a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questi mesi. Riprenderemo la programmazione nelle settimane appunto prossime, quando termineranno tutte queste feste. L'unico augurio che vi posso dire appunto è di divertirvi, di vivere appunto questa gioia del Natale di un Gesù che viene per noi anche all'interno dei propri oratori, che sia sempre più punto di riferimento. Prima di lanciare o prima di fare è bene anche sapere per chi si fa, ecco perché diciamo che l'oratorio è anche un'occasione, uno strumento per un annuncio cristiano, e forse è quello che in questo momento forse manca ed è più necessario. Tanti auguri di buon Natale alla regia, al nostro Eddie Daici, alla Betta, alla Elisa e ai tanti collaboratori appunto che fanno parte del mondo di Fuori di Noi. Ci risentiamo ovviamente dopo le vacanze ancora, sempre su Blu Radio Veneto, e quindi solamente vi diciamo non più ci risentiamo la prossima settimana, ma ci risentiamo nel 2012. Tanti auguri! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.